Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci, siamo pronti. Buon pomeriggio a tutti voi da Gegè Telesforo. Siete in contatto con il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24 dal Groovemaster Studio. E do il buon pomeriggio anche al nostro Francesco Tromba. Buon pomeriggio a voi. Ti consiglio di restare ancora a distanza di sicurezza, perché come vedi sono pieno di fazzolettini e li sto seminando dappertutto, mio caro. Allora mi metto una tuta spaziale per evitare il contagio. Il contagio, ecco, esatto. Allora, che cosa vogliamo fare oggi? Perché io avrei un'idea. Che idea? Cioè quella di seguire un percorso sonoro che ci guiderà attraverso delle collaborazioni. E vorrei partire presentando agli appassionati di musica di Radio 24 la nuovissima, recentissima pubblicazione di una delle mie vocalist compositrici preferite, giovane donna bianca americana chiamata Becca Stevens. È una voce pazzesca. Ecco, forse lei si definisce The Perfect Animal? L'animale perfetto, che poi è il titolo del disco. Sì, è quello il titolo. Ho letto che lei le è piaciuto molto fare questo disco, stranamente, perché di solito quasi tutti gli artisti quando si riascoltano non si sono piacciono. Soddisfatti. Invece lei... Beh, quelli umili, eh? Sì, invece lei mi è sembrata soddisfatta. Sì, soddisfatta anche perché è stata una produzione, un lavoro abbastanza complesso e lungo. Hanno lavorato in vari studi di registrazione in stati diversi degli Stati Uniti proprio per seguire una produzione che coinvolgeva vari musicisti. Sì, anche molto duro, perché ho letto che quando lei ha registrato le parti vocali l'ha fatto quasi in una settimana, quindi fare un intero album solo della parte vocale in una settimana, stava praticamente impazzendo. Quindi un lavoro di produzione, non è un album che è stato registrato live in studio come si fa nel jazz, ma una vera produzione curatissima in questo caso, perché Becca Stevens si è approdata a una multinazionale, quindi ha una distribuzione importante. Il disco credo sia stato pubblicato più o meno una settimana fa negli Stati Uniti, ma noi ve lo presentiamo in anteprima. Quindi Perfect Animal, il titolo del nuovo album di Becca Stevens. Il brano io lo trovo veramente bello. Sì, bellissimo. Thinking About You, tanto per dare il via a questo percorso sonoro che ci guiderà attraverso una serie di collaborazioni per arrivare, pensate, dal suono di Becca Stevens a quello del rapper super richiesto oggi, Kendrick Lamar. Sembra impossibile, ma è così. Completamente diversi. Esatto. Becca Stevens apre il soundcheck di questa domenica con Thinking About You dal nuovo album Perfect Animal. Eh sì, assolutamente da non perdere il nuovo album di Becca Stevens con la sua band, Thinking About You, il titolo del singolo. L'album è Perfect Animal. Becca Stevens, molto richiesta dai musicisti contemporanei di vari versanti musicali, si spazia dal jazz all'R&B alla musica contemporanea, ma questo perché Becca Stevens è una musicista completa, preparatissima, laureata in musica, suona benissimo la chitarra, l'ukulele e può cantare qualsiasi spartito le venga messo di fronte. Sì, può adattarsi a qualsiasi genere, perché appunto è una grande professionista. E infatti il talento di Becca Stevens non è sfuggito anche a un altro vocalist molto accreditato in questo periodo. Tra l'altro da pochissimo è stato pubblicato un album con il quale celebra Billie Holiday, ma una delle produzioni più interessanti è proprio quella dell'anno scorso fatta per la Blue Note Records, e vi stiamo parlando di José James. Sì, bravissimo anche lui, è anche lui uno strano personaggio, un po' sembra quasi un po' fuori dal tempo. Dall'ordinario anche, sì. Musicalmente parlando. Sì, è anche molto attento alla sua vocalità. Vabbè, certamente non fuma, non beve, va a letto presto, ore di warm up prima di presentarsi in palcoscenico, quindi scalda la sua voce con attenzione, insomma un vero professionista anche lui. Beh, per uno che viene dall'hip hop sembra molto strano, soprattutto il fatto che non fumi per niente. Allora, non so se chiamarlo José James o José James. Fa lo stesso, però è lui, José James, quindi dall'album della Blue Note, eccolo qui in collaborazione con Becca Stevens, che è anche l'autrice di questa composizione intitolata Dragon, probabilmente dedicata al tatuaggio del quale va fiero il nostro José James. Può essere, anche perché ha una strana connessione col Giappone. Eccolo qui, Dragon, Becca Stevens e José James al soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. Si intitola While You Were Sleeping, l'album per la Blue Note realizzato da José James o José James, qui al Soundcheck di Radio 24 con il singolo Every Little Thing. E oggi qui al Soundcheck, alla prova del suono di Radio 24, stiamo facendo un percorso sonoro che è iniziato con il nuovo album di Becca Stevens e che ci porterà incredibilmente al rap contemporaneo di Kendrick Lamar. Staremo a vedere come, seguiremo le varie collaborazioni che hanno portato il nostro José James, per esempio, a collaborare alcuni anni fa con un trombettista della nuova generazione, un trombettista che arriva da Kobe in Giappone, che però si sposta giovanissimo negli Stati Uniti per intraprendere i suoi studi, si diploma alla Berklee School di Boston, poi si sposta a New York e questo signore si chiama Takuya Kuroda. Sì, per me, io la critica che muovo a Kuroda è che leggendo poi la sua biografia non si rivede nella sua musica, nel senso che la sua musica sembra quella di un trombettista uscito dalla Berklee School di Boston, quindi perfetto dal punto di vista musicale, però magari per differenziarsi potrebbe inserire qualcosa di giapponese, di tradizionale nella sua musica. Non so, tu dici, È soltanto che quando poi ti ritrovi negli Stati Uniti, se non fai quello vieni messo in un angolo. Certo, anche perché penso la differenza e riuscire a unire le due cose non sia molto facile, però un modo per differenziarsi secondo me lo dovrebbe trovare. E quindi Takuya Kuroda, quando ha realizzato il suo primo album, che cosa fa? Coinvolge il nostro José James. Ovviamente. E quindi eccola qui, un'altra collaborazione, un altro tassello con il quale portiamo avanti il nostro appuntamento di oggi. Eccolo qui, Takuya Kuroda con José James in questa versione di Everybody Loves the Sunshine, un vecchio successo del vibrafonista cantante Roy Ayers al soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. Pronti dal Groovemaster Studio per il soundcheck di Radio 24, la puntata di oggi iniziata con Becca Stevens ci sta guidando attraverso collaborazioni di giovani artisti fino al suono del rap di Kendrick Lamar, quindi da Becca Stevens a Cosé James, da Cosé James al suo trombettista Takuya Kuroda. Infatti questo brano era proprio Rising Sun, il brano che dà il titolo all'album di questo trombettista giapponese ormai americano di adozione, che nelle sue pubblicazioni richiede il supporto di un giovanissimo pianista americano chiamato Chris Bowers. E questo Chris Bowers si sta facendo notare, anche lui molto preparato musicalmente, viene da una famiglia di artisti che non fanno musica ma fanno cinema. Sì, televisione e cinema. La madre e il padre sono la madre è una producer della TV e invece il padre scrive per il cinema. Lui ha studiato alla Juilliard, quindi immagino non abbia problemi economici. Esatto, perché la Juilliard è una delle scuole più care del mondo. Sì, vinse un paio di anni fa il premio del Thelonious Monk. Ah, quindi Thelonious Monk Competition come giovane pianista. Sì, è del 1989. Potremmo definirlo un po' l'erede di Robert Glasper? Sì. Un Robert Glasper giovane. Quanti anni ha? 24, 25? Dell'89, quindi 89. Quasi 25. Per Bacco. Allora, Chris Bowers, anche lui album molto carino, si intitola Heroes and Misfits, pubblicato più o meno un anno fa. Sì. Eccolo, allora noi vi presentiamo Chris Bowers con Ways of Light, con la partecipazione, eccolo qui, ritorna lui, José James, al soundcheck di Radio 24. Chris Bowers. Holding out your hand to me in a vision I can see, yes. Promises I made to keep for a higher destiny. Soundcheck, il suono della musica. Allora, se una puntata del nostro soundcheck inizia con il nuovo album di Becca Stevens intitolato Perfect Animal e si conclude con il suono rap tostissimo di Kendrick Lamar, vuol dire che ha una morale. Qual è, mio caro Francesco Tromba? Che non esistono barriere o scaffali nel mondo della musica. Anche perché non esistendo quasi più neanche i negozi di dischi, e non ha più senso dividere in categorie la musica. Soprattutto per i giovani artisti della scena statunitense, in particolare newyorkese. Sì, perché anche quando ho parlato con Taylor McFerrin, lui mi ha detto che in realtà la scena newyorkese è più piccola di quello che possa sembrare. Si conoscono alla fine tutti quelli musicisti che sono di base a New York fra di loro. E quindi Becca Stevens collabora con José James. José James coinvolge un trombettista giapponese chiamato Takuya Kuroda, che ha come pianista Chris Bowers, che è un musicista della nuova generazione che si diverte anche a collaborare con artisti della scena hip hop e rap. Sì, come Jay-Z e anche Kanye West. E tanti dire. Altri. E naturalmente, da appassionato di hip hop e di rap, è un fan di Kendrick Lamar. E infatti alcuni anni fa, da solo in studio di registrazione con il suo pianoforte e un campionatore, realizza la sua versione per solo pianoforte di Riga Mortis, che è uno dei successi di Kendrick Lamar di qualche anno fa. Io direi di ascoltare un momento di Chris Bowers con il suo pianoforte. Anticipo che non troverete alcuna versione discografica, ma noi ci siamo procurati comunque questa versione di Chris Bowers per Riga Mortis di Kendrick Lamar, che sta per partire. Eccola qui. Sentite la parte ritmica, tutto fatto sul pianoforte, in tempo reale. Mm-hmm. da solo con il suo pianoforte, il bravissimo giovane pianista americano Chris Bowers realizza la sua versione di Riga Mortis, celebre rap di Kendrick Lamar, un successo di qualche anno fa. Sì, Kendrick Lamar in questo momento è proprio la star indiscussa. Eh sì, e in sottofondo vi stiamo proponendo la versione originale di Riga Mortis, che poi si conclude con un rap di Kendrick Lamar da fare invidia ritmicamente ai batteristi. È un maestro del genere, è un modo di cantare il rap micidiale. Sì, e di esprimersi con dei testi che hanno dei significati molto profondi. Sì, molto molto profondi e pieni anche di citazioni. È importantissimi i testi di Kendrick Lamar anche per il nuovo album To Pimp a Butterfly, che è già un successo internazionale, ha scalato le classifiche di vendita in tutto il mondo. Sì, e pare sia già entrato comunque nella storia del rap, quindi procuratevi assolutamente una versione di To Pimp a Butterfly. E allora ti voglio dare la mano, mio caro Francesco Tromba, ce l'abbiamo fatta. Da Becca Stevens siamo arrivati a Kendrick Lamar con This Waltz da To Pimp a Butterfly per chiudere la prima parte del soundcheck. Ci ritroviamo sempre qui su Radio 24 a partire dalle 19:15, da non perdere la puntata di questa sera, perché vi presentiamo il nuovo album di Didi Bridgewater. Abbiamo già ascoltato qualcosa, ma questa sera ve lo racconteremo un po' meglio. Ma mi dicevi anche che hai parlato con lei, magari. Stai zitto, queste sono sorprese, non svelare i nostri appuntamenti. Vabbè, sì, parleremo con Didi Bridgewater prestissimo, collegati via Skype però. Grandissimo. Allora ci sentiamo più tardi con il soundcheck, sempre qui su Radio 24. Kendrick Lamar. Sex. She just wanna close her eyes and sway. With you, with you, with you. Exercise her right to work it out. It's true, it's true, it's true. Shout out to the birthday girl, say hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic. Microphone check, check, one, two. Sound check, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Eccoci pronti per la seconda parte del soundcheck qui su Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gigi Telesforo, buonasera anche al nostro Francesco Tromba. Buonasera a tutti. Stai lontanissimo da me, Francesco, e passami i fazzoletti, perché ormai sono diventato una specie di mina vagante, te lo dico. Ma io ho gli anticorpi al cervello. Sono contagioso, mio caro, però sono sempre pieno di note. Quello è l'importante. Eh sì, è importante, e anche in questa seconda parte vogliamo celebrare nuovamente il nuovo album di Didi Bridgewater, e lo vogliamo fare benissimo. Sì, assolutamente. Lo facciamo bene perché Didi Bridgewater ci ha regalato in anteprima assoluta la pubblicazione di questo nuovo album, che dovrebbe uscire proprio in questi giorni, forse domani. Sì, noi per correttezza però non abbiamo suonato molto prima, anche per, sì, per un paio creare di, un po' di attesa. Un paio di tracce però ci sono sfuggite qua e là durante queste settimane. È per forza, è un gran bell'album. Esatto, il disco è bellissimo, e Didi Bridgewater, che ormai da anni è una star del jazz internazionale, in questa occasione celebra proprio New Orleans. Sì, è una nuova riscoperta di New Orleans, tutto quello che è successo anche negli ultimi 10-15 anni, l'uragano, come è stata ricostruita la città, come si è ricreato comunque tutto l'underground, tutta la musica intorno a New Orleans, che è la patria del jazz, come sapete tutti. È la bellissima Didi Bridgewater che quest'anno festeggerà il suo 64esimo compleanno, 64 anni di pura bellezza per Didi Bridgewater. Per raccontarci New Orleans, riunisce in studio di registrazione la favolosa New Orleans Jazz Orchestra, diretta da un talento, il trombettista Irving Mayfield, e coinvolge anche dei veterani di New Orleans per realizzare questo album, come Dr. John. Il brano che vi vogliamo presentare subito si intitola Hoopin' Blues, e qui viene fuori proprio la grandezza di Didi Bridgewater, perché nella sua vocalità ci fa ascoltare le sue origini, il piacere di essere swingante, ma di groovare al tempo stesso con un sound tipico della Louisiana. Sì, sembra un disco degli anni 30, però super moderno, cioè nuovissimo, appena uscito. Didi Bridgewater con Hoopin' Blues al soundcheck di Radio 24. Talking about got them. A big fat man who loves me all night long. Hush your mouth. Every time he loves me, it makes my love come strong. I got a big fat man. Got a big fat woman. Got a big fat man. I got a big fat woman. Got a big fat man. I got a big fat woman. Got a big fat man. Got a big fat woman. Got a big fat man who loves me. Intitola Didi's Feathers, la nuova produzione, il nuovo album stupendo di Didi Bridgewater con la New Orleans Jazz Orchestra, e fra i brani che ci riportano al periodo glorioso del jazz tipico di questa capitale della musica statunitense, ce ne sono anche alcuni che ci fanno fare proprio un bel viaggio nel passato e ci raccontano delle storie strepitose. Allora, per esempio, Didi Bridgewater non poteva dimenticare all'interno di questa produzione il ritmo tipico di New Orleans, che è il second line, ovvero quella scansione, quella clave tipica scandita dalla seconda linea di rullanti nelle marching band di New Orleans. Sì, e vedo dal titolo di alcuni pezzi di questo album che si riscopre quello che era il quartiere dei neri di New Orleans, come si chiama ancora oggi, Tremei. Eh sì, e parla anche nel disco di Congo Square, che era poi la piazza dove venivano venduti i neri. Sì, dove poi si è anche sviluppato il jazz, dove c'erano le band che suonavano per strada e hanno costruito, hanno inventato il jazz. Didi Bridgewater, Dream Song, Do What You Wanna. Soundcheck, il suono della musica. Wear them feathers till I'm dead. Hold on steady. Hold on steady. Hold on steady. Hold on steady. Si intitola Didi's Feathers, il brano che dà anche il titolo all'ultima pubblicazione di Didi Bridgewater, che il prossimo 30 aprile, quindi la prossima settimana, tornerà nella sua amata Parigi, città che l'ha ospitata a lungo negli anni 80, per celebrare The International Jazz Day. E sì, ormai dal 2011 per l'UNESCO il 30 di aprile si festeggia The Jazz Day. Sì, per promuovere anche l'importanza del jazz dal punto di vista sociale, politico, educativo, culturale, qualsiasi aspetto possibile. E naturalmente dal primo anno The Goodwill Ambassador dell'International Jazz Day non poteva che essere Herbie Hancock, che quest'anno organizza il main concert insieme all'UNESCO proprio nella città di Parigi, al quartier generale dell'UNESCO. Sì, Parigi che è stata in un certo senso la sponda europea, quindi del jazz, il primo posto in cui molti artisti americani si sono trasferiti quando come suonavano. Didi Bridgewater, esatto. Negli anni 80 dagli Stati Uniti trovò l'America lì a Parigi in Francia. Allora, vi ricordiamo, il 30 di aprile si festeggia l'International Jazz Day, anche in Italia ci saranno degli eventi, ma tutte le informazioni del caso le troverete nel sito di riferimento, ovvero jazzday.com. potrete seguire così fino alla prossima settimana gli appuntamenti appuntamenti che si stanno organizzando anche nelle ultime ore. Sì, che spesso si annunciano anche proprio all'ultimo momento, l'ultimo giorno. Nel concerto di Parigi ovviamente potrete vedere il meglio, come diciamo, di Bridgewater, ci saranno anche Till Bronner, ci sarà il nostro Antonio Faraò, Herbie Hancock, Marcus Miller, Femi Kuti, Wayne Shorter, Diane Reeves, Da Fair You Set, allora tantissimi. Tocca comprare un biglietto magari low cost, ma andare a seguire personalmente The International Jazz Daily a Parigi il 30 di aprile, Goodwill Ambassador per l'UNESCO e Herbie Hancock che qui con Stevie Wonder celebra New Orleans in un classico di William Christopher Handy intitolato St. Louis Blues. Soundcheck, il suono della musica. Tra i protagonisti del concertone del 30 di aprile per festeggiare The International Jazz Day lì a Parigi nel quartiere generale dell'UNESCO, anche Al Jarreau qui con Accentuate the Positive. E siamo arrivati ai saluti, mio caro Francesco. Sì, ormai siamo giunti alla fine. Alla fine, ma ci risentiamo sabato prossimo. A che ora? Sempre 19:15. E poi la domenica in due parti dalle 15:30 e 19:15. Allora, grazie a tutti. Che facciamo? Vogliamo suonare Marcus Miller, visto che stiamo parlando dell'International Jazz Day e fra i protagonisti ci sarà anche lui, e visto che ha pubblicato il nuovo album dedicato a Madre Africa, intitolato infatti Afrodisia, direi di suonare questa bellissima composizione dal titolo Extraordinary. Marcus Miller chiude il soundcheck. A tutti voi buona serata, buon lavoro e naturalmente buona musica da Gigi Telesforo e da Francesco Tromba.